signorina che gioca con l'amore. Gelidi i tuoi baci per riscaldarmi il cuore. Sento tanta malinconia, sarà la nostalgia del mio perduto amore. Mia bambina, ma una moderna signorina che ha tanto freddo il cuore. Sei stato un sogno, il primo sogno della mia gioventù. Ti ho tanto amata, ma sei cambiata, non ti conosco più. Tanto freddo.